Stavo pensando mentre stavamo cantando, stavo pensando anche ai canti, però stavo pensando che c'è tutta una storia riguardo ad allungarsi la vita, a diventare immortali. Sembra che ci siano dei potenti della terra che vogliono assicurarsi di arrivare a 150 anni attraverso terapie, cure, trapianti. Gesù ha fatto di più. Gesù ha fatto di più. Gesù è morto ed è risorto. Non vi vedo convinti. Gesù è morto ed è risorto. No, non vi vedo ancora convinti. Gesù è morto ed è risorto. Ah, ok, brain. Veda, veda, veda, piano piano, piano piano. Ecco, sì. Ed è il nostro Signore. È il nostro Signore. Lui è qui. E guarda a ognuno. E questo ogni volta mi mette sottosopra. Perché da una parte dico, Signore, grazie che tu vedi ognuno. E da una parte dico, ma pure a me mi vedi come sono. E non so che versione scegliere. Ma il Signore è qui. E non è per giudicare. Arriverà anche quel momento. Ma adesso è qui per consolare, per indicare la sua strada, per attirarci a sé e darci quella vita abbondante che ha preparato per ognuno. Il meglio che possiamo trovare non lo troviamo in nessun altro posto se non in Lui, nella sua parola. Questo però non ha niente a che vedere con quello che andremo a dire, mi sono permesso lo stesso di tergiversare un poco. Noi ritorniamo a Romani, capitolo 12, il versetto 1. E questa è la terza volta che ci ritorniamo sopra, ma vi garantisco che potremmo spendere un intero anno, riguardo a questo, perché ha a che vedere con il nostro progetto di diventare come Lui. Quell'idea che abbiamo avuto, quella visione che il Signore ci ha dato come Chiesa di realizzare il come te in ogni aspetto della nostra vita, in maniera pratica, in maniera reale, è racchiuso in questi versetti in un modo sorprendente per me. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Questa mattina arriveremo al cuore del cambiamento, che non è il cambiamento stesso, perché il cambiamento è un processo, ma il cuore del cambiamento ha un inizio, ha una decisione, ha un fondamento sul quale si poggia il cambiamento. Senza questo fondamento non ci può essere cambiamento. Il capitolo 2 ci dà delle informazioni pratiche che producono cambiamento. Non conformatevi a questo mondo. Lo vedremo, se abbiamo, ci arriveremo, piano piano, piano piano ci arriveremo. Però cerchiamo di dare sostanza al primo versetto. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. Abbiamo visto la volta scorsa che ci sono diversi motivi per i quali noi possiamo approcciarci a Dio, come ci sono diversi motivi che ci hanno portato questa mattina al culto. Forse dovevamo servire, forse qualcuno ci ha minacciato, dice, oh, mi raccomando, qualche motivo ci ha portato qua. E nella storia che Gesù ha raccontato del figliol prodigo, lui mette in evidenza due aspetti, due ragioni per le quali noi possiamo scegliere di approcciarci a Gesù. E il primo è quello del figlio più tenace, diciamo così, che a un certo punto ha detto: papà, dammi quello che mi spetta, che me la voglio vedere io. E questo ha a che fare quando noi andiamo al Signore con l'idea di sfruttarlo, di usarlo come risorsa per soddisfare i nostri bisogni. Infatti il figlio che ha detto: dammi quello che mi spetta. Lui pensava che gli spettasse qualcosa e lo stava reclamando. La conseguenza pratica di questo è che nel momento che noi otteniamo quello che chiediamo a Dio, non abbiamo più motivo per intrattenere una relazione con Lui. Infatti quel figlio ha preso, si è alzato e se n'è andato. E se noi siamo qui questa mattina con l'intenzione di ricevere qualcosa dal Signore che soddisfi i nostri bisogni e basta, quando lo otterremo potremo fare anche a meno di venire qui. Penseremo che ormai è tutto fatto. Il secondo motivo è forse ancora peggio, se si può fare una scala, perché è quello del secondo figlio che era lì con suo padre con il timore non di avere un padre ma di avere un padrone, e quindi lui aveva il padre che era il signore di tutto, ma si sentiva uno schiavo, un operaio sottopagato e sfruttato. E poi ha reclamato tutto adesso: io non ci vengo a mangiare con te perché tu mi hai maltrattato fino ad adesso. L'unica ragione valida che noi abbiamo per presentarci a Gesù è proprio quella che leggiamo: per la misericordia di Dio. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. Ora, noi abbiamo visto anche le altre volte che ci sono due tipi di misericordia. Una è la misericordia strettamente legale, quella che è legata al fatto che avevamo un debito di peccato che non potevamo pagare e Gesù lo ha pagato sulla croce. E questo ha a che fare con l'aspetto legale della misericordia. E Gesù ne ha parlato con Nicodemo, ha detto a Nicodemo: se tu non nasci di nuovo non puoi capire le cose che ti sto dicendo. Ed è quella nuova possibilità che Gesù ci offre con il perdono dei peccati, quando noi lo riconosciamo come Signore, perché il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo figlio non per giudicare, ma affinché noi potessimo avere vita attraverso di Lui. E questa misericordia ci vede spettatori. Noi la possiamo accogliere nella nostra vita, ma non possiamo fare niente, né per meritarla, né per guadagnarla, possiamo solo riceverla. Il secondo aspetto della misericordia ha a che vedere con un patto di misericordia. E questi due aspetti li vediamo tutti descritti dall'Apostolo Paolo in Tito, al capitolo 3, il versetto 5, è scritto così: egli ci ha salvati non per le opere giuste da noi compiute, ma per la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e del rinnovamento dello Spirito Santo. La rigenerazione ha a che fare con il primo aspetto della misericordia, quello legale, quello di ricevere una nuova vita, una nuova possibilità. E ha come conseguenza la salvezza e il dono della vita eterna. Il rinnovamento dello Spirito Santo ha a che fare con il secondo aspetto della misericordia, con il nuovo patto, cioè quello che ci permette di realizzare il come te, che parla di un rinnovamento dello spirito. In questo rinnovamento noi abbiamo la nostra parte. Nell'aspetto legale di misericordia possiamo solo accettarla. Possiamo solo dire: sì, Signore, io ho bisogno di te. Perdonami, io voglio entrare in comunione con te, perdonami, dammi una nuova vita. Ma nel rinnovamento, che ha a che vedere con il cambiamento, avete mai sentito vostra moglie che ha detto: qua dobbiamo rinnovare? Quando vostra moglie dice: qua dobbiamo rinnovare, significa che dobbiamo buttare tutto e far da capo. Almeno con mia moglie è leggermente così. Quindi il rinnovamento non è una cosa spicciola, è una cosa profonda ed è un processo, è un, un, un qualcosa che inizia e che avanza e che man mano diventa, prende corpo e prende vista e ci coinvolge, ci deve coinvolgere. Ma qual è la nostra parte? Vediamo un poco qual è il termine del patto del rinnovamento. È scritto in Ezechiele, al capitolo 11, il versetto 19. Queste cose le abbiamo già viste, le stiamo ricordando. Io darò loro un medesimo cuore, metterò dentro di loro un nuovo spirito, toglierò da loro il cuore di pietra e metterò in loro un cuore di carne. Adesso viene il patto. Perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettano in pratica. Esse saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio. Ma qual è la nostra parte? È scritto in Romani 12, al versetto 1. Presentare i nostri corpi in sacrificio vivente. Questa è la richiesta. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. È stato interessante scoprire nella parola che viene tradotta presentare, in greco è paristemi, e uno dei significati è quello di cedere. Cedere. Cioè rinunciare al possesso di qualcosa, e in questo caso il Signore ci invita a cedere il possesso di noi stessi e di offrirlo in sacrificio vivente, presentarsi a Dio come sacrificio vivente. Quando i credenti della Chiesa di Roma, che erano misti, giudei, c'erano dei romani, degli italiani, che venivano tutti dalla conversione che c'era stata in Atti al capitolo 2. Vi ricordate quando c'era gente di tutte che lo Spirito Santo ha fatto quella grande opera di salvezza? Bene, sembra che lì sia nata la chiesa ai romani, con questi pellegrini che poi sono ritornati a Roma e hanno fondato una chiesa. Ma per queste persone l'espressione sacrificio vivente era un errore grossolano, perché non esisteva un sacrificio che potesse continuare a vivere. Sacrificio era qualcosa che dovevi ammazzare, uccidere. Quindi sacrificio vivente era una contraddizione nei termini per loro. E hanno detto, quando l'hanno detto la prima volta, ma questo a me che cosa vuole? Era la prima volta che veniva presentato un modello nuovo di sacrificio. Fino a quel momento il sacrificio era qualcosa che veniva offerto o come espiazione del peccato o come forma di ringraziamento, ma era la prima volta che il sacrificio e chi sacrificava avevano la stessa identità. Era la prima volta, era qualcosa di inedito, fino a quando Gesù non ha inaugurato questo nuovo modello. Lui è stato il primo a fare questo tipo di sacrificio, dove non si sacrificava qualcosa, ma si sacrificava se stessi. Gesù è stato il primo che ha dato l'esempio. In Efesini al capitolo 5 è scritto: siate dunque imitatori di Dio, come figli amati, e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati. Attenzione, e ha dato se stesso per noi in sacrificio, no, e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo soave. Gesù è stato il primo che ha fatto coincidere il sacrificio con chi lo offriva. Poi piano piano i romani hanno capito, come a noi questa mattina, piano piano, piano piano. Ma noi la parola sacrificio come suona? Non è una bella parola, non è una parola simpatica, non ci piace. Indica la rinuncia, sofferenza, sforzo. E certamente nessuno di noi combina la parola sacrificio con qualcosa di bello, di allegro, di allettante, da inseguire, da perseguire. E probabilmente è anche vero che ognuno di noi si trova in una situazione di sacrificio per il lavoro, per la famiglia, per la scuola. La vita ci richiede dei sacrifici. Forse vai dal medico e ti dice ti devi mettere a dieta. Altro che sacrificio è quello. Ma non ci piace. E noi faremo volentieri a meno di fare qualsiasi tipo di sacrificio. E qui noi leggiamo che la parola di Dio ci invita a essere sacrificio vivente. Non è proprio quel che ci aspettavamo, eh? Cioè, forse siamo andati a Gesù per avere una vita più semplice, più risolutiva, con più soluzioni, e mo ci troviamo di fronte a questo. E però purtroppo Romani capitolo 12 sta nella Bibbia mia, ma sta anche nella Bibbia tua. Ed è esattamente scritto così come l'ho letto. Puoi andare a controllare. Sono stato a pensare, sarebbe stato molto meglio se Paolo avesse usato la parola consacrazione. Consacratevi a Dio. Sarebbe stato molto meglio che presentarsi come sacrifici. Infatti, una cosa consacrata è qualcosa che viene elevata da un livello terra a terra, in alto, è qualcosa, diciamo, che viene elevata. Invece sacrificio è una cosa che, però in realtà, sapete, sacrificio e consacrazione sono come una strada, due corsie, nella stessa direzione. E la direzione è quella della gloria di Dio. E non c'è sacrificio senza consacrazione, e non c'è nemmeno consacrazione senza sacrificio. E una cosa non può fare a meno dell'altra. Allora, ci può sorgere la domanda, dici, ma che fa Dio? Si diverte a vedermi soffrire, si diverte a vedermi in difficoltà, ha bisogno di umiliarmi? In effetti, una lettura superficiale di questo ci può portare a delle considerazioni simili e ci darebbero un'idea distorta, sbagliata di Dio. Dio non ha nessun bisogno di vedermi soffrire, ha già sofferto Lui per me. Dio non ha nessun bisogno di umiliarmi, si è già umiliato Lui fino alla morte della croce, per me. Per capire bene quello che Paolo sta dicendo, abbiamo bisogno di considerare due aspetti. Il primo aspetto è quello del contesto nel quale lui ha scritto questa lettera. Non è che Romani 12 viene da solo. Inizia dal capitolo 1 e arriva al capitolo 12. E se andate a rileggere il capitolo 7, Paolo dice qualcosa di molto chiaro ai Romani. Dice: il vostro corpo è la benzina, è l'energia, è la leva che il diavolo usa per il peccato. I vostri desideri, le vostre passioni, le vostre debolezze sono quello che il diavolo usa per la tentazione e per il vostro peccato. Lui lo arriva a definire, com'è che ho scritto? Ed è scritto nella parola di Dio, corpo di morte. E quindi, giustamente, ha esortato i Romani a sottomettere questo corpo di morte a Dio, a cederne il comando. Gesù è stato molto più drastico, e Gesù è Gesù. In Matteo capitolo 5, versetto 27 è scritto: voi avete udito che fu detto, non commettere peccato, non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella Geenna. Poi si era detto, forse questi non hanno capito. E se la tua mano destra ti fa cadere in peccato, tagliala e gettala via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri perisca piuttosto che vada nella Geenna tutto il corpo. Ma immaginate voi che spettacolo avremo qua fra di noi se dovessimo eseguire alla lettera tutto quello che abbiamo letto. C'è un pronto soccorso in zona di guerra. Chi ha un occhio, chi ha una mano, chi ha una gamba. Tutti, nessuno escluso. Quindi la lettura corretta è che il nostro presentare a Dio i nostri corpi in sacrificio significa che anziché tagliare la mano, togliere l'occhio, noi ne cediamo il controllo al Signore. Diciamo, tieni Signore, fai tu. Ma questo controllo ha una certezza, che è il patto di misericordia, perché camminino secondo le mie prescrizioni e osservino le mie leggi e le mettono in pratica. Significa che lo Spirito Santo ci rende finalmente, veramente capaci di ubbidire. Perché io anche con gli occhi chiusi, se sento delle cose che mi fanno innervosire, mi arrabbio. E che cosa mi devo togliere per togliere la rabbia dentro di me? Il secondo aspetto che dobbiamo considerare è quello, è molto più semplice, è intuitivo. Ha a che fare con ricordare semplicemente da cosa il Signore ci ha salvato. Da dove ti ha salvato il Signore? Da dove ti ha preso il Signore? Io lo so, me lo ricordo molto bene. E il versetto in Romani al capitolo 6, versetto 23, che dice che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna, è quello che mi ha dato la speranza di dire, Signore, io ti do quello che ho e voglio prendere da te quello che mi dai. Non dimentichiamo da cosa Gesù ci ha salvato, dove eravamo, da dove ci ha preso. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Ora, ci sarebbe veramente da aggiungere tanto alla qualità del sacrificio che offriamo. Basta che ricordiamo nel Vecchio Testamento doveva essere come doveva essere, o se no non lo potevi dare. Su questo hanno fatto i soldi i mercanti del Tempio, perché uno andava col suo sacrificio, no, quello non è buono, questo devi comprare. Per quello che Gesù ha rivoltato tutto. Ma io voglio mettere alla vostra attenzione quello che Davide ha detto in 2 Samuele 24:24. Lui a un certo punto gli veniva offerto qualcosa da offrire a Dio. Era il re. E lui ha detto, no, io non comprerò da io comprerò da te queste cose per il loro prezzo e non offrirò al Signore qualcosa che non mi costi nulla. Se non ti costa nulla, se non ti costa nulla quello che offri al Signore, il Signore non sa che cosa se ne deve fare. Questa è la verità. E troppe volte io mi sono sorpreso a offrire al Signore qualcosa che gli volevo far credere che valeva. Ma ha preso la verità, E questo ha a che vedere con la qualità del sacrificio. E ognuno conosce se stesso. Però ricordati questo, se non ti costa niente e tu lo offri a Dio, il Signore non sa che farsene. Vorrei spendere gli ultimi minuti sulle ultime parole che dicono: questo è il nostro culto spirituale. E questa affermazione è potente. Perché crea una connessione diretta fra le nostre manifestazioni esteriori e quello che abbiamo dentro il nostro cuore. Perché dice culto spirituale. Culto spirituale. Allora, il culto si vede, lo spirituale non si vede, ma c'è questa connessione stretta. E noi siamo stati qui e siamo ancora qui, fortunatamente. Abbiamo cantato, abbiamo alzato le mani, daremo l'offerta, qualcuno più audace darà la decima. Cioè, siamo qui per offrire il nostro culto al Signore. Ma sapete cosa? Se questo culto non è su un fondamento molto preciso, che è quello di essere stati o di essersi offerti in sacrificio a Dio, non serve a niente. Non serve a niente. Perché offrite questi corpi in sacrificio a Dio, questo è il vostro culto spirituale. L'Apostolo Paolo per se stesso ha espresso in questi termini il concetto. Galati, capitolo 2, versetto 20. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo era lo standard che l'Apostolo Paolo aveva per se stesso. Sono stato crocifisso con Cristo. Io non lo so in che misura ognuno di noi può abbracciare, esprimere il proprio standard nei confronti di quello che abbiamo appena letto, ma questo è. Non è che perché io non riesco o io non voglio cambia, questo è. Rabindranath Tagore, dici chi è? Non lo sapevo neanche io. È un poeta indiano. E questo poeta indiano ha espresso il concetto di sacrificio in un modo che mi ha veramente colpito, mi ha impressionato e io lo voglio esprimere a voi. Lui ha detto qualcosa di molto semplice. Una corda libera può fare tutto quel che vuole, può girare così, la posso poggiare qua e aspetta là, la posso fare quel che voglio. È una corda libera, libera di fare quello che vuole. L'unica cosa che non può fare è suonare. E questa corda è stata fatta per suonare. Che cosa deve succedere affinché questa corda possa suonare? Deve essere sacrificata. Deve essere legata da tutti e due i capi a una chitarra. E poi deve essere tirata, deve essere accordata. E ogni volta che si scorda la deve andare ad accordare. E non è più libera, non può fare più quello che vuole, non può più girare così, ma può fare quello per cui è stata creata, suonare. Solo se è sacrificata può iniziare a fare quello per cui è stata creata. Ora, tu e io siamo liberi di scegliere di fare la nostra vita, di girare da un lato, di girare dall'altro, di essere buttati in aria. Possiamo scegliere di fare tutto quello che vogliamo, ma questa libertà non ci permetterà di fare l'unica cosa per la quale siamo stati creati: dare gloria a Dio, servire il suo nome, dargli l'onore che gli spetta. E tu puoi scegliere di rimanere libero e di fare quello che vuoi, ma questa è una libertà che è un'illusione, perché comunque rimarrai schiavo dei tuoi vizi, delle circostanze, del tuo carattere, del tuo peccato. Puoi fare quello che vuoi, ma non puoi suonare. Solo nel momento in cui tu ti offri come sacrificio vivente e sei disposto a legarti al Signore, a lasciarti accordare da Lui, a lasciarti tirare, a lasciarti accordare, solo in quel momento potrai fare quello per cui sei stato creato: suonare, dare gloria a Dio. E sapete, questo essere sacrificato darà un valore, un senso alla tua vita, come questa corda acquista valore solo quando può suonare. Oggi tu puoi iniziare a suonare. Devi semplicemente scegliere di sacrificarti, di presentarti a Dio quale sacrificio vivente e dire: Signore, tu sei il Signore e io faccio quel che tu dici. Sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Quale sarà la tua decisione? Perché tu solo puoi decidere di presentarti in sacrificio vivente a Dio. Dio quello che ci aveva da fare ha fatto già, ha mandato Gesù. E Gesù quello che ci aveva da avere ha fatto già. È andato sulla croce, è morto ed è risorto. E tu puoi abbracciare l'aspetto legale della misericordia. Ma per acquistare valore, per fare quello per cui sei stato creato, devi accettare di presentarti a Dio come sacrificio vivente, così come sei, così com'è la tua situazione questa mattina. Semplicemente dire: Signore, ho capito e lo voglio fare. Non basta che hai capito, lo devi fare. Non basta nascere chitarra, nascere corda, ti devi legare a una chitarra. Vogliamo alzarci in piedi un momento per piacere e pregare? Gesù, io ti voglio ringraziare perché tu non hai permesso che io rimanessi inutile, senza valore, senza uno scopo. E tu non vuoi che nessuno di noi qui questa mattina viva una vita inutile. Io ti ringrazio, Gesù, che tu accetti che io mi presenti a te. Tu metti un cuore nuovo dentro di me, che mi permette di camminare secondo la tua volontà. Gesù, io ti chiedo che questo desiderio, che è il mio desiderio, sia il desiderio di ognuno di noi questa mattina, di ognuno di noi che ha ascoltato questo messaggio, il desiderio di legarsi a te, il desiderio di essere in accordo con la tua volontà, il desiderio di vivere quello che tu hai preparato. Grazie Gesù, grazie Gesù che questa mattina noi possiamo prendere questa decisione e possiamo venire a te e dirti: eccomi Signore, sono qua. Lode e gloria al tuo nome Gesù. Amen.